Wender e Fabio Alisei presentano. Questo è Polaroid, istantanee di storia della musica. CD. Compact disc. Un cerchio di policarbonato trasparente di 120 mm di diametro con un buco al centro che manda contro luce riflessi color arcobaleno. Riflessi color arcobaleno. Il cibo di un occhio laser. Arati al suo interno, invisibili al tatto di chi pratica i solchi del vinile, pits and lens, pozzi e terre, pieno e vuoto, 0 e 1. Codici binari, nati per archiviare dati telefonici e diventati qualcosa di diverso grazie allo sforzo congiunto di Sony e Philips. L'alba della sonorità digitale. Ogni supporto può contenere 74 minuti e 33 secondi di musica, la durata della più lunga esecuzione disponibile della nona sinfonia di Beethoven, compresi 8 secondi di silenzio. Il 17 agosto 1982, mentre l'Italia festeggia il terzo mondiale e il Commodore 64 si vende al dettaglio per $595, non è Beethoven il primo ad essere codificato in file. La copertina di questa pagina di storia della riproduzione musicale tocca ad Herbert von Karajan, che dirige la Sinfonia delle Alpi di Richard Strauss. Il cammino dell'oggetto simbolo di un futuro che è già passato comincia con la musica classica e tramonta senza compiere mezzo secolo. Lo ripercorriamo oggi anno dopo anno, traccia dopo traccia, CD dopo CD, in una raffica di scatti col flash. Open. Close. Play. Accendete l'hi-fi. Inizia Polaroid. Super stereo. Polaroid. Istantanee di storia della musica. ...1981, Stoccolma. Gli ABBA sono a pezzi. Fuori soffia la guerra fredda, ma dentro il Polar Music Studio il clima è ancora più gelido. Bjorn e Aneta hanno divorziato da un anno. Non vogliono stare insieme. Non vogliono cantare insieme. Non vogliono registrare insieme. Ma il loro ottavo album deve uscire assolutamente. È quasi pronto, è già pagato. C'è un tour in partenza e il produttore, Michael Tretow, lo sa. Così vola in Giappone, raggiunge la sede della Tokyo Electro Acoustic Corporation e per una cifra a 5 zeri si fa consegnare il prototipo di qualcosa che ancora non esiste, un oggetto chiamato Tascam, ovvero un registratore digitale in grado di incidere fino a 32 tracce separatamente, in momenti diversi e di riversarle insieme. Bjorn e Aneta potranno cantare la stessa canzone senza mai incontrarsi. Il nuovo album si farà e si intitolerà The Visitors. Sarà l'ultimo degli ABBA e non ci saranno reunion, nemmeno per la cifra record proposta dalla Universal allo scoccare del 2000, $1 miliardo. La storia della band svedese finisce qui, con il primo album stampato in CD nella storia della musica pop. When 1978, New York City. La chiamano la Swing Street perché Miles Davis, Dizzy Gillespie, Duke Ellington, Thelonious Monk ed altre mille divinità del jazz hanno posato gli strumenti qui, lasciando un segno indelebile nei muri, nell'aria, nell'asfalto. Taglia a metà Manhattan come un colpo di macete, facendosi spazio fra il tempio di Radio City e il Gershwin Theater per tuffarsi giù dentro Hell's Kitchen, fino alle onde dell'Hudson. Di questa strada, la 52esima, Billie Holiday diceva che era come una piantagione di cotone, dove i negri possono cantare, ma non ascoltare. Qui, al 12esimo piano del CBS Building, Billy Joel registra il primo album venduto in CD della storia della musica, regalato in omaggio con il primo moderno lettore Sony. Succederà a Tokyo il 2 ottobre del 1982 e il titolo parlerà della strada che ha visto nascere le sue canzoni, 52nd Street. They say it takes a lot to keep a love alive. In every heart that pumps a different beat. But if we shift the rhythm into overdrive, well, we could generate a lot of heat. 52nd Street. Oh, oh. A 52nd Street. We're gonna have a little soul parade before they know the second bar was played. We're gonna slip it to them short and sweet on 52nd Street. Polaroid, istantanee di storia della musica. Anche Depeche Mode sono passati al digitale con Enjoy the Silence. The silence, break the silence. 1977, Berlino Ovest. Il Duca Bianco ha messo in pausa coca e whisky, è fuggito dalla città degli angeli e si è rintanato qui per scrivere il declino del punk. Ha preso un appartamento ammobiliato dietro i binari di Potsdamer Platz, sul gomito di quel muro che separa il mondo attraverso lo spiraglio armato del Checkpoint Charlie. Quella mattina stessa, sotto un cielo di filo spinato, ha visto una cosa dalla finestra, una cosa che non si aspettava. Il suo produttore Tony Visconti e la sua corista, Antonia Maab, si stavano baciando. Tony è sposato, in patria, e David Bowie non può tradirlo. Però può scrivere una canzone, la storia di due amanti che si baciano attraverso il muro, contro tutte le convenzioni, contro tutte le paure contrapposte. La storia di due eroi. E finita questa canzone, questo album, tornare in patria ed essere il primo artista al mondo a digitalizzare su CD il suo intero catalogo musicale, per diventare anche lui, a suo modo, parte di quegli eroi. Della musica si ferma e torna tra poco, solo su Radio 105. Su Radio 105 c'è Polaroid, istantanee di storia della musica. Oggi ripercorriamo insieme l'alba del supporto digitale, i primi brani a passare sul CD. 1983, Los Angeles. A casa di Eddie Van Halen suona il telefono, qualcuno dall'altra parte parla ma non si sente un cazzo, Eddie riattacca. Il tizio richiama ma non si sente di nuovo un cazzo, allora Eddie riattacca ancora. Alla terza volta Eddie perde la pazienza, alza la cornetta e manda a fanculo il tizio all'altro capo del telefono, giusto? Solo che quel tizio è Quincy Jones, quel Quincy Jones, il produttore più potente di tutto il mondo. Così Eddie chiede scusa e Quincy gli domanda tutto serio: ehi Eddie, ti va di suonare due note per Michael Jackson? Cazzo se mi va, risponde Eddie. Quindi prende la chitarra e se ne va in studio. La canzone in questione è di Steve Lukather, quello dei Toto per capirci, ma Eddie vuole metterci sulle mani perché è un po' molliccia, dice lui. Così comincia a suonare così forte che i tecnici devono abbandonare l'edificio. Suona per 3 ore, appiccica il meglio di quello che gli è uscito con l'astro magnetico, poi va da Quincy e gli dice: fratello, ho finito. Quanto vuoi per lo sbatto? Gli chiede Quincy. A posto così, risponde Eddie, tanto non avevo un cazzo da fare. E cosa vuoi che scriviamo nei crediti? Continua Quincy. Boh, mettici alla chitarra Frankenstein, scherza Eddie, tanto mi sembra che sto disco non è tanto fico. Però si sbaglia. Così, quando rincontra Quincy Jones qualche tempo dopo e Thriller è tipo sui 20 milioni di copie, Quincy si offre di pagarlo di nuovo e Eddie questa volta accetta, ok? Il suo cachet per l'assolo di Beat It saranno 2 casse da 6 di birra. E a posto così. Ma non è finita! La sera stessa Eddie va in un locale e nelle casse c'è proprio Beat It, mi segui? E ci sono 2 ragazzini che ascoltano l'assolo e dicono: ma guarda sto coglione di Michael Jackson che ha preso uno che imita Van Halen. Eddie gli bussa sulla spalla ai 2 ragazzini, dico, e gli fa: beh cazzo, veramente quel coglione sono proprio io. E insomma, questa è più o meno la storia del CD più venduto di sempre, ecco. 1985, Londra, underground. Mark Knopfler ondeggia su un vagone della Central, tiene in mano una copia di Guitar World e pensa: cazzo, non mi hanno messo fra i 50 chitarristi migliori del mondo. In classifica ci sono Eric Clapton, Frank Zappa, perfino George Harrison, che non becca un mi minore nemmeno per sbaglio. Ma lui non c'è. Lui che ha scritto la storia della Fender con l'assolo di Sultans of Swing non c'è, nemmeno al 50° posto. Scende dalla metro, cammina per la stazione e vede un ragazzo con la chitarra, un musicista di strada. Suona senza amplificatore e sta rivolto contro il muro per sfruttare il riverbero della parete. A Mark ricorda quando da bambino appoggiava l'orecchio sulla cassa per sentire il suono più forte, più limpido. Ed improvviso tutto si trasforma. Chi se ne fotte di Guitar World? Fra poco uscirà Brothers in Arms, il primo album in CD a vendere oltre 1 milione di copie, e la storia di quel ragazzo contro il muro diventerà una canzone. Questa. Ripercorriamo insieme l'alba del supporto digitale, i primi brani a passare sul CD. settimane di storia della musica si ferma e torna tra poco, solo su Radio 105. Su Radio 105 c'è Polaroid. Istantanee di storia della musica. Oggi ripercorriamo insieme l'alba del supporto digitale, i primi brani a passare sul CD. Giugno 1988, Wembley Stadium. Nelson Mandela ha appena compiuto 70 anni, di cui 27 in carcere per aver tentato di liberare il suo popolo dalla segregazione dell'apartheid. Il mondo si mobilita, l'arte si mobilita. Mandela deve essere libero e questo concerto, il Freedom Fest, lo pretende con tutta la forza della musica. La scaletta è infinita. 11 ore non stop, da Bryan Adams a Tracy Chapman, da Whitney Houston ai Bee Gees, Whoopi Goldberg, Stevie Wonder, Simple Minds, Sting. Il Pungiglione canta il suo primo pezzo da solista dopo la disgregazione dei Police, che è anche il primo album in CD ad aver raggiunto il disco di platino in Italia. Una canzone che parla di amore e libertà, la stessa che Mandela dovrà attendere dietro le sbarre per altri 2 lunghi anni. The man is Nelson Mandela. 13 febbraio 2018, stato dell'Indiana. Nella fabbrica di Ter Hot, divisione Sony, viene stampato l'ultimo CD musicale della nostra storia. 375 dipendenti si preparano a rimanere disoccupati. Altri 300 saranno ricollocati per produrre DVD e Blu-ray destinati a film e videogiochi. La catena Best Buy non venderà più musica in compact disc. Non ci saranno computer o lettori in cui farli girare. Maglioni da strofinare per cancellare le ditate. Copertine rigide su cui pippare. Entro il 2022 il supporto semplicemente non esisterà più. Come l'arma di una civiltà sepolta, come un qualsiasi insetto estinto. I camion chiudono i portelloni e partono alla volta dell'America. Portano in pancia scatoloni pieni dell'ultimo album stampato su policarbonato, la colonna sonora di un film che probabilmente avrà successo e che, con amara ironia, racconta la storia di una stella che nasce, proprio mentre un'altra tramonta. Essere stranamente legati ai contenitori che la racchiudono. Abiti, case, diari, dischi, supporti concreti e deperibili per contenuti astratti come parole, musica, emozioni, ricordi. Forse perché gli oggetti, più dei concetti, si vedono, si toccano, si contano, occupano spazio e peso, riempiono il nostro vuoto in modo materiale, là dove alle volte le persone non arrivano. Come quelle vecchie foto in formato Polaroid. Di storia della musica torna sabato prossimo alle 19 su Radio 105. Polaroid è una produzione Zodi 105, ideato da Wender e Fabio Alisei. Voce Lucilla. Questo file è stato scaricato dal canale Telegram Zodi 105 Channel, registrato da Anthony. Per altre repliche e altro materiale